mosh mosh mosh mosh mosh mosh mosh mosh mosh. L'auja sera camminando su su lungo una strada io incontrato un muscio nero. S'accucchiato gitto gitto, m'ha acchiappato per giacchetta e m'ha detto un gianna ricchia. M'ha detto miau. Ulia dice di me tie, si sonnivro che io fare pure io. Aio campari. Io non posso più uscire, io non posso camminare, dimmi di un chiudere, por muscio nero miau, por muscio nero miau. Miau, miau, miau. N'hai udito, senta mia, io ti do un consiglio come amico, come hanno figlio. Vani vani hanno pittori che ti pitta ianco ianco come quando pittano quadro. E così già ianco e nero passa solo un momento e ti è poi poti campari. Ma però si sì, nemico e mi incuncia la conciata, tieni un medaglia la strada, muscio ianco e nero miau, muscio ianco e nero miau, muscio ianco e nero miau. Miau, miau, miau.